Buongiorno e benvenuti a Fuori Posto. I Fuori Posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Buongiorno a tutti da Filippo Roma e qui accanto a me da Umberto Alezio. Ciao, buongiorno a tutti. Chi è Umberto Alezio? Posso presentarti? Allora, Umberto Alezio è un autore delle Iene, è quello che pensa ai servizi e poi io li vado a fare. Sì, e poi tu vai a prendere le botte, no? Infatti Filippo Roma è una Iena, un inviato di successo, ma a me piace definirlo come l'unico uomo che per guadagnarsi la pagnotta deve prendere i calci in culo, giusto? Esatto, più calci in culo prendo, più guadagno. Infatti come funziona? Io ho un'idea, a volte anche pericolosa, e poi ti dico, bravo Filippo, vai, falla. Falla, soprattutto falla, vai tu. Falla, questa idea è bellissima, funziona e più prende le botte, no? Più prende le botte, più in una situazione difficile, più guadagna, giusto? Certo, ma dove siamo oggi? Cos'è i Fuori Posto, Umberto? Oggi, allora, dopo il miracolo italiano, no? Radio 24 ha prodotto il miracolo di produrre questa trasmissione, no? Filippo, subito, perché i Fuori Posto? Sì, questo sarà il regno dei Fuori Posto, cioè di tutti coloro che sono alla ricerca di un posto al mondo, di tutti quelli che il posto ce l'avevano e adesso l'hanno perso, di quelli che hanno scelto il posto sbagliato, di quelli che adesso stanno sotto l'ombrellone al caldo ma vorrebbero stare dentro l'ufficio con l'aria condizionata, di quelli che stanno lavorando e vorrebbero scappare al mare, insomma tutti quelli che per un motivo o per l'altro si sentono fuori posto. Tu perché ti senti fuori posto? Perché sto qui con te, Umberto. Che non è il massimo, diciamo. Il massimo. Vorrei stare in vacanza, vorrei stare al mare a nuotare e invece sto in questo studio insieme a te a fare questo programma. Ecco, un po' fuori posto mi sento. Ti capisco. E tu, Umberto, invece sei a posto o fuori posto? No, io sono fuori posto, sono un disadattato, sono più che fuori posto, sono un fuori amore, no? Tu che mi conosci, che sei mio amico anche, sai il mio dramma personale. E appunto, io dico, oggi è la prima puntata dei Fuori Posto, stiamo su Radio 24, dovremmo stare allegri e contenti, tu mi devi mettere il magone col tuo dramma d'amore, perché ricordiamolo, ve lo dico a tutti, voi non lo sapete, Umberto è stato lasciato dalla donna. Sì, e quindi da quel momento mi sono sentito inadeguato, no? Quindi sono andato fuori posto, mi sono sentito fuori posto, ho capito che ero stato troppo un cazzone, troppo coglione e quindi bravo, vivo un'autocritica che corrisponde alla realtà. Di solito in questi casi gli amici devono dire no, ma dai, le colpe stanno nel mezzo. Tutto vero, invece. Tutto vero. Ma scusa, fammi capire, ma tu vuoi usare la radio per riconquistare la tua ex? Bravo, se permetti e se permettete voi che ci state ascoltando, io volevo fare un uso privato dei microfoni di Radio 24. Ah, proprio così? Sì. Io mi sono sentito inadeguato e fuori posto quando la mia ormai ex ragazza ha detto basta, è finita, sei troppo un cazzone, da questo momento le nostre strade si separano. E come darle torto? Sarà successo anche a voi, no? Anzi, scriveteci, messaggiateci a ifuoriposto@radio24.it oppure lasciateci un messaggio alla nostra segreteria 0246524182 oppure whatsappateci dove, Filippo? Al 349-2386-666. Pagina ufficiale Fuori Posto, se volete aggiornamenti, news, notizie, cliccate mi piace, vi apparirà tutto automaticamente in bacheca, no? I Fuori Posto. Ma in tutto ciò, Umberto, a parte i cazzi tuoi, vogliamo cominciare questo programma? E io volevo approfittare, proprio se permetti, se mi dai altri due secondi, per dare un bacino, lanciare un bacino, sto bacino a lei, se mi mettete una musica. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price. Ah, che bello, vedi, questa musica, cioè questa musica mi entra dentro. Se ti vedo un bacio, amore. Mua. Che momento commovente. Ma tu che sei un grande uomo, no? Tu che sei fortunato perché hai trovato l'amore, no? Sì, io ho trovato l'amore, ma è la persona che sta con me, che è fortunata, che ha fatto 13 con la vita. Pensa, non gioca più la schedina da quando si è sposata con me. Ma sei sicuro? Certo, è ovvio. Beh, conoscendo Cristiana, no? Conoscendo Cristiana, non credo che la pensi esattamente così. Potresti chiederglielo e ti direbbe: guarda, è l'uomo perfetto, è il marito ideale. Va bene. E come caramba, che sorpresa, Cristiana è qui a Radio 24. Ci sei, Cristiana? Ci ascolti? Sì, ciao, ciao. Vabbè, lei veramente. Cristiana, allora. Ma Filippo, ma che stai dicendo? Ma io adesso ti puntini puntini davanti a tutti. No. Chiaro. Cristiana, noi a Radio 24 non si capisce il perché. Ci hanno dato carta bianca, quindi, cioè, senza censure. Tu, allora, Filippo ha detto che tu sei una donna fortunata perché lui come marito, è vero? Cioè, Cristiana, no, senza censura. Esattamente il contrario. Cioè, io mi sono firmata la condanna a morte quando ho deciso di sposarlo. Un disastro. Cioè, cosa c'ha che non va? C'ha mille complessi. Tipo, non esageriamo. Un disastro. Ma uno si aspetta st'inviato d'assalto, senza paura? No, guardate, visto che sentivo che parlavate di fuori posto, allora subito, ricollegandomi anche al titolo di questa vostra trasmissione, vi dico che fuori posto per Filippo significa entrare nel pallone. Se entra in casa e trova un cuscino, ma neanche fuori posto, che invece che sul divano in modo verticale sta un po' piegato in orizzontale, gli prende l'ansia e tutto deve essere in ordine, tutto la cornice deve stare così, il cuscino cos'ha? No, è veramente averlo accanto... È come stare con un paranoico dell'ordine e del fuori posto, appunto. Cioè, sappi che stai demolendo un personaggio, perché uno si aspetta che lui va a fare il pezzo dove rischia la vita e poi a un certo punto torna con te, fa l'amore tutta la notte e riparte, no? No, magari facesse così, magari ci fosse un uomo così. Ma sessualmente non può dire niente. Purtroppo... Sessualmente non può dire niente, eh? No, guarda, pure là lasciamo perdere, mamma mia, perché è talmente ansioso, l'ansia da prestazione anche là. Okay, quindi cazzi miei... non solo sui servizi, non solo sui servizi, ma nella vita. Ah, cioè, pure lui lì. È uno che vuole prendere schiaffi anche in casa, dai figli. Ah, pure. È un succube. Andiamo avanti, vabbè. È uno succube, vabbè. Lo devo dire. Grazie. Vabbè, Cristian, mi sa che è meglio che chiudiamo qui, perché l'operazione demolizione Filippo Roma... Io ho approfittato di questa bella occasione per dire la mia. Cristiana, noi ti ringraziamo di cuore e niente, ci fermiamo qui per evitare insomma ulteriori conseguenze, esatto, all'immagine. Poi ne parliamo a casa, poi. Vabbè. Grazie della sorpresa. Un bacio. Ciao. Vabbè, dopo questa bella sorpresina, credo che il mio posto sarà fuori casa, perché posso aggiungere anche meritatamente, cazzo. Sì, cioè, grazie un bel, ti ringrazio, la bella figura di merda che mi hai fatto. Grazie. Sei proprio un amico. Sono un amico. Vabbè, comunque fuori posto, vedi, uno pensa di essere il marito ideale, invece alla fine non lo è, quindi uno pensa di stare nel posto giusto, in realtà ha sbagliato totalmente, no? Invece c'è, sai che ti dico? C'è chi un posto l'ha trovato, no? Per strada, però. Che posto è? Adesso ce lo racconterà direttamente il protagonista di questa storia. Diciamo che il titolo è Il pane della camorra, e voi vi chiederete, no? Che allora... senso ha collegare il pane e la camorra, no? Invece ha proprio senso, perché tutte le domeniche mattine, Umberto, a Napoli e dintorni spuntano nelle varie strade, nelle varie incroci, questi banchetti di legno carichi di forme di pane, no? E dietro ci sono questi famosi venditori del pane della camorra, che sono totalmente abusivi. I bancarielli, no? Si chiamano a Napoli. E perché hanno successo? Perché vendono tanto pane? Ecco, ci sei, Antonio? Sì, sto qua. Noi siamo al telefono collegati con Antonio, no? Che è uno dei cosiddetti panettieri della camorra, no? Uno che vende cacciapane. Anto, tu hai trovato un posto per strada, no? Vendi il pane, ma che fai, sì, praticamente? Sì, a notte mi scendo a Brest, compro il pane nei forni, a Roma trovo, un prezzo migliore. E poi la mattina, prima... vado portando torno tutto questo pane, tutto quello che trovo. Dammi un secondo per tradurre a quelli di Bolzano, no? Antonio vende il pane per strada, no? Cioè, si sveglia la mattina presto, tra i vicoli di Napoli, si alza, va a fare un carico di pane, compra tanti pezzi di pane. Quanti ne compri al giorno, Antonio, di pezzi di pane? 80, 100 pezzi, come mi trovo. Ogni giornata sempre si vende sempre di più, perché poi l'affare è buono. Tu dove vai a vendere questo pane? Dov'è che ti piazzi? Ma certe zone ci posso andare, perché un master dice che ha già in là e poi sì. Il master chi è? Il tuo capo? Il tuo boss? Sì, un masto, quelli che comandano, no, diciamo, quelli che mi ricordi, quelli che mi fa fatica. Quindi quello che comanda ti dice dove devi andare a vendere il pane? Certe zone ci posso, di zone non ci posso, perché non è cosa sua. Perché praticamente, spiego sempre per i nostri radioascoltatori di Trento, no, perché in alcune zone ci sono dei clan e in altre sono controllate da altre famiglie, no, camorristiche. E se tu vai in una zona dove non potresti andare, perché magari ti piace, perché c'è mercato, c'è smercio, cosa ti succede? Può succedere un broglio, perché... Che vuol dire? Vengono vicino, mi minacciano, mi scassano tutto cose, si pigliano la roba... me ne gioia là, perché un master poi là non può intervenire, perché non è zona sua. Senti, Antò, come viene fatto questo pane? Cioè, dici la verità. A notte, quello che vuoi, appiccia tutto, va in dei furni, perché c'è tutte cose che è incredibile, appiccia tutte cose per cuocere, vignam, vedana, pure un legno dello cimitero, tutto. Cioè, il legno delle bare? Qualche volta l'ha già visto, Cioè, praticamente questi panifici illegali per cuocere il pane e quindi abbassare i costi di produzione. Quello che trovano, i seggi, il port, vanno girando coppi. I fumo, le immondizie, allora, quello che trovano legno e brucia. Quindi io che sono della provincia di Napoli, no, ho sempre pensato che quello fosse pane casareccio fatto in casa, non è fatto in casa. Una volta si faceva così, una volta quando in da casa un legname era pulito, ma mo che sta gente non sta ne scrupolo, peggio me proprio. Senti, tu quanto devi dare di pizzo, no, su ogni pezzo di pane al tuo boss, al tuo capo zona? Pure 50%, quindi un pezzo di pane quanto costa? Ah, si può comprare sotto un euro, io lo vendo 2 euro. Quindi tu devi dare il 50% al tuo capo zona? Sì, come minimo, la notte, la sera, già fecondo, perché fino a una roba non posso uscire. Ascolta Antonio, ma se io volessi una mattina prendermi la briga di venire a vendere il pane, se io volessi liberamente vendere il pane, potrei farlo? Non do consigli, dipende dalla zona dove vai. Se vieni dalla zona mia ti faccio male prima, perché è zona mia, la Pagnotta e Pagnotta, già Campaini che andò tu. Cioè, ma qua a Napoli si può anche, che ne so, sparare o fare molto male per un pezzo di pane? Si può, come non si può? Si può morire. Ultima domanda e poi ti ringraziamo. Tu il pane che vendi lo dai da mangiare ai tuoi figli? Mai, che le monnette, io non ci ho detto mai, mi dispiace per la gente, ma io è già campato. Va bene, Antonio, ti ringraziamo. Ciao, grazie Antonio. E ti salutiamo anche per il coraggio che ci ha dimostrato. Beh, sì, no? Non c'è soltanto Antonio che vende il pane però a Napoli. No, non c'è soltanto Antonio, però c'è anche chi sostiene, noi dobbiamo per correttezza ascoltare tutte e due le campane, chi dice che il pane della camorra è una cosa totalmente inventata, no? Ora ci risulta difficile perché comunque ci sono stati degli arresti, sequestri e altri ne seguiranno. E chi è che dice che non c'è questo pane della camorra? C'è chi sostiene che il pane della camorra è un'invenzione, è vero? Sì, è vero. Tu chi sei? Io sono Raffaele, di Afragola. Allora, Raffaele di Afragola, giusto? Sì. Allora, sì. Tu che fai? Che lavoro fai, Raffaele? Io faccio il panificatore. Perché dici che questo pane della camorra è un'invenzione? Perché se vieni nelle zone di Afragola, Casoria e anche un po' Fratta, Cardito, Caivano, il pane non le salumerie lo vendono a 80 e a 1 euro, un litrice dopo che sta camorra che si piglia con l'anno. Ma ci devono spiegare che si pigliano. Però i costi sono minimi, ma se paghi l'operaio meno di quello che gli è dovuto, ti costa 70-75 centesimi. Quindi Antonio si è inventato tutto. Ma Antonio hai un sacco di cazzate, secondo me. Cioè, non è vero che ci sono i clan che controllano il territorio. Almeno che il pane non vende 5 euro, allora è come riciclo. Però, a onor del vero, ci sono stati dei maxi sequestri e intercettazioni. Sulla panificazione, non credo proprio. Vedete che ci stanno altre cose a fianco. Vedete che ci sono altre cose a fianco. Io sfido se hanno fatto questi maxi sequestri, come dite, sul pane. Io vi sfido e vi faccio richiamare di nuovo e chiedo scusa in diretta, ma non è proprio così. Ma se noi cuociamo il pane con i bruciatori dove passano i palletti che sono prendiamo atto, noi per correttezza ascoltiamo tutte le campane, intanto ti ringraziamo. E invece adesso, sempre sul pane della camorra, ci rivolgiamo a un panettiere molto coraggioso, no? Mimmo, buongiorno. Buongiorno a voi. Mimmo Filosa è il presidente dell'Unipan, no? Sì, sono il presidente dell'Unipan, l'associazione regionale panificatori. Perché sei coraggioso? Non è che sono coraggioso, faccio un dovere civico, quello di denunciare l'illegalità che c'è sul pane, niente di straordinario. Cavolo, sei coraggioso in una terra come quella, no? Napoli è una dintorno. Terra come nostra, sì, perché da questi problemi che ci avevamo, sentivo sottovoce quel collega che parlava, ma era un panettiere? Sì. No, perché per dire, dai sequestri che fanno i carabinieri, non dico tutti i giorni, ma ogni 15 giorni sequestrano i forni che cuociono il pane con pedane, con legno verniciato, penso che non è normale. Lo so che ci sono i bruciatori, ma quanti panettieri usano e sono onesti e hanno un'etica per fare il pane? Cioè, il pane lo produci legalmente, no? E fai delle denunce rispetto a chi non lo fa. Ma hai avuto minacce, ripercussioni per questa tua attività di denuncia? Ho avuto minacce, sì. L'associazione, un dirigente, gli hanno acceso 3 macchine fuori al panificio. A me mi hanno sabotato un furgone, mi hanno tagliato le ruote, quindi minacce, sono arrivate minacce anche diciamo trasversali. Purtroppo viviamo in questa terra dove ci sta il business, c'è l'illegalità. Questo, Mimmo, sempre per tutti i nostri radioascoltatori, perché tu provavi a vendere il pane in zone controllate dalla malavita, no? Dalla camorra. Sì, ci sono delle zone dove non puoi andare a vendere il pane perché sono controllate dalla criminalità. Mimmo, qual è la soluzione? La soluzione è quella che i comuni, in tutti i comuni dove ci sta la polizia municipale, l'ASL, dove non c'è controllo, noi dobbiamo ringraziare gli angeli che si chiamano i carabinieri, che reprimono questo fenomeno dell'abusivismo. Se non ci fossero i carabinieri saremmo rovinati. Purtroppo gli organi competenti tra le ASL e la polizia municipale sono assenti, o hanno paura, o c'è corruzione. Certo. Quindi a volte dalle indagini che sentiamo, che si vanno sotto inchiesta ASL, polizia municipale, qualcosa la dice lunga, però purtroppo il fenomeno è questo. Noi subiamo e subiamo tutti i giorni, perché chi lavora nell'illegalità deve combattere contro il sottocosto del pane, perché ci sono panifici che vi ripeto, hanno dei costi zero perché usano una materia prima non buona. Ecco, spieghi questa cosa, tu che sei panettiere, come viene fatto questo pane della camorra? Il pane della camorra, diciamo, questi forni legali che usano legno che non è buono, che sono pedane, porte verniciate, sfruttano l'extracomunitario, tutte queste cose qua, non hanno i forni a norma, quindi stanno proprio nell'illegalità. Va bene, Mimmo. Dovete sapere dove ci sta, dove non c'è controllo, dove c'è business, c'è sempre la criminalità che poi mette le mani. Ok, Mimmo, tieni duro. Mimmo, tieni duro, noi facciamo il tifo per te, noi di Radio 24 facciamo il tifo per te, e sono sicuro anche tutti i nostri radioascoltatori. Mimmo, un'ultima cosa, se vuoi un po' più leggera, qual è il segreto per fare un buon pane fatto in casa? Il segreto è usare la mamma di Criscito, che sarebbe il lievito madre, con amore, passione e tanta materia prima buona. Va bene, Mimmo, noi facciamo il tifo per te, noi di Radio 24. Comprate grazie. Il pane di Mimmo, panettiere legale. Comprate il pane di Mimmo e comprate tutto il pane che è tracciato, no? Nella filiera produttiva, nell'intera filiera produttiva. Ma noi non finisce qui la nostra piccola inchiesta, no? Sul pane della camorra, perché chi abbiamo al telefono? Abbiamo Francesco Borrelli, no? Consigliere alla regione Campania, giusto? Sì, sono qui. Ma questo fenomeno esiste o non esiste? Perché c'è chi dice che esiste e c'è chi ci ha detto che non esiste. Allora, Francesco, noi a Radio 24 ci diamo del tu, no? Ok, allora, perfetto. Va bene? Sì, sì. No, allora, tanto che esiste, che pochi giorni fa la Guardia di Finanza ha sequestrato intere piazze di, tra virgolette, spaccio del pane al clan Lurusso. Non solo, gli hanno sequestrato dei panifici che loro gestivano, cioè oramai oltre alle piazze di spaccio ci sono le piazze di spaccio del pane, dove i clan, ci sta un clan in particolare, Lorusso, hanno preso il predominio, perché il pane frutta alla camorra diciamo una parte importante del business, diciamo che sta cominciando a diventare interessante quanto la droga. Che fatturato c'ha il pane? Ovviamente parliamo di numeri legati all'azione della camorra, quindi sono approssimativi, ma per la malavita organizzata può rappresentare, per un clan ben organizzato, 200-300 milioni di euro di gestione economica all'anno. Certo, perché significa una cifra insignificativa. Tenete presente, sono due livelli di spaccio. Uno, l'imposizione della vendita del pane, cioè il clan fa realizzare il pane e obbliga i panificatori a comprarle a un prezzo maggiorato, secondo quello che dicono i magistrati. Cioè tipo un chilo di pane costa 1 euro, loro lo obbligano a vendere a 1,30 euro. E poi c'hanno la gestione del pane venduto illegalmente, soprattutto il sabato e la domenica. nelle macchine, in mercatini improvvisati e così via. Là lo vendono a molto meno, lo vendono a 90 centesimi un euro, e quel pane di cui prima parlava il panificatore Mimmo Filosa, quel pane è un pane fortemente e pericolosamente tossico, cioè quel pane ci può far ammalare di tumore. Noi preghiamo in ginocchio i cittadini a non comprarlo, neanche tanto per la camorra, lo voglio dire, ma per la loro salute, perché quel pane è fortemente cancerogeno, ci sono additivi e robaccia là all'interno, si sente il profumo e così via, ma per prendere un pane profumato, come si fa alcune volte anche con altri prodotti, non è difficile. Il problema è che là dentro ci sta roba tossica. Va bene, abbiamo capito che la camorra, no? Perché ormai ragionano come dei veri manager, no? Ha capito sono che ha capito che il pane è un bene comune e quindi anche di prima necessità. Ma perché le persone se lo comprano sto pane? Parte non ne sono coscienti quando viene venduto tramite, diciamo, il racket ai panificatori. In altra parte perché costa meno, cioè il sabato e la domenica loro trovano a un prezzo molto minore il pane venduto nelle bancarelle. Ma guardate che ci sono alcuni territori in cui se le polizie municipali si organizzassero farebbero raid continuamente. Il problema è che sono solo esclusivamente i carabinieri a farlo, e quindi non basta soltanto l'intervento dei carabinieri. Ma il problema serissimo è che questo business sta diventando sempre più interessante, perché con la crisi economica di tutto si possono privare le famiglie tranne che del pane. Certo. E quindi il pane è un mercato eterno. Chiarissimo. Grazie mille. Francesco. Bene, Umberto, ma prima di lasciare campo alla pubblicità, noi ricordiamo come contattarci per chi vuole raccontare le proprie storie: iforiposto@radio24.it oppure via WhatsApp al 349 23 866 6666, oppure la nostra pagina ufficiale Facebook I Fuori Posto. Chi è fuori posto ci scriva. Tutti fuori posto sono allertati. Noi ci ritroviamo qui tra qualche minuto, sempre qui su Radio 24. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità, e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Il prosecco e i lombrichi, la spara parmigiano e i pomodori idroponici. Ma anche fritture di meduse. O risotti di alghe. E le olive spremute con gli ultrasuoni. E i frutteti verticali. Tutto questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì alle 15. Qui su Radio 24. Fuori posto. Grandissimo Freddie Mercury, chi non l'ha riconosciuto, che ahimè in una brutta domenica di novembre del 1991 ci ha lasciati. No, fermo. Tu pensi che ci abbia lasciato? Ci ha lasciato, purtroppo è morto. No. Hai appena detto una cazzata. Freddie Mercury non è morto, o meglio, non si muove più il suo corpo, no? Ma il suo spirito si è rincarnato. Ma dove si è rincarnato? Il suo spirito è volato in cielo, sì, e poi è ritornato sulla terra. Dove? Dannato. A Manduria, in Puglia. Veramente? In Puglia, sì. E si è rincarnato, no, in Piero Veneri, no, che è in arte Freddie Mercury. Giusto, Piero? Sì, buonasera a tutti. Sono Piero Veneri.

Cioè, ti rendi conto? Noi, fuori posto, due coglioni qualsiasi, abbiamo riportato ai microfoni di Radio 24 non Tiziano Ferro, non Laura Pausini, ma... Vabbè, ma Freddie Mercury, ma questa è una notizia, adesso lo lanciano all'Ansa. Cioè, noi abbiamo scoperto Freddie Mercury redivivo. Hai capito? Comunque, diciamo... Diciamolo chiaramente, le tasse vanno pagate, anche se un po' ci scoccia, no? Sì, pure Freddie Mercury deve pagare le tasse. E quindi pure Freddie Mercury gli tocca però pagare. Però non ci ha voluto dire quanto prende per ogni serata, eh? Chissà perché, chissà perché. Se non, quindi cioè, facciamo un appello, insomma, a Freddie o a Piero. Sì, cioè, perché... paga le tasse, lavori, paga le tasse, no? Da sto orecchio non ci posso sentire, Piero. È tanto bravo, c'è una bella voce, sembra veramente Freddie Mercury. Comunque, ma vedi, non posso... a suo modo, Piero, che faceva il pescivendolo a Manduria, ha trovato un posto nel mondo, perché si è trasformato in Freddie Mercury, si è inventato un lavoro, un po' come noi, e adesso tira a campare, no? Che vogliamo dire a tutti quelli che in questo momento magari stanno sotto l'ombrellone o negli stabilimenti balneari di tutta Italia ad ascoltarci? Non vi preoccupate che prima o poi anche voi troverete il vostro posto. Sì, sì. Guarda, ci stiamo rivolgendo a te che sei sotto l'ombrellone e stai pensando che con tua moglie, che ti rompe le palle, e con i tuoi bambini che fanno casino, e che vorresti stare con la tua amante. Quindi a te... pensa che prima o poi anche tu potrai trovare la tua giusta collocazione, che è o divorziato e rovinato oppure felice con l'amante, no? Intanto spera che finisca più presto la vacanza, dai, è quasi fatta. Noi ci vediamo tra poco, sempre qui su Radio 24, i Fuori Posto. I Fuori Posto. Eccoci qua di nuovo ai Fuori Posto con Filippo Roma e Umberto Alezio. Vi ricordiamo che se vi sentite fuori posto, nel lavoro, tra gli amici, in amore, scriveteci a ifuoriposto@radio24.it, perché fuori posto spesso significa stare fuori posto in amore quando le cose non vanno. Umberto ne sa qualcosa. Certo Filippo, non è carino che tu ridi di un mio dramma, no? Cioè io sono andato fuori posto quando la mia ragazza, quella che ormai è la mia ex ragazza, mi ha detto ti lascio. Aspetta, facciamo un piccolo appello, approfittiamo. Lui ti aspetta, è sempre qua. Un bacio, un bacio, un bacio. A Milano, a Radio 24. Dai, forza. Via Monterosa 91. Oggi pomeriggio all'uscita, via qua, se no io non ce la faccio più a staccata a questo che soffre. Basta. Comunque, ci scrivono tantissimi, per fortuna, no? Meno male, vuol dire che ci ascoltano. Meno male, finché ci ascoltano non ci cacciano via. Come non ci ascoltano più, ci cacciano Addio, via, no? Veramente fuori, a quel punto perdiamo il posto. Però, insomma, non solo io ho vissuto un dramma, no? D'amore, no? Lo vive pure qualcun altro, no? Che si è sentito fuori posto, no? O che ha capito che, insomma, era vittima di qualcosa, no? Cioè, Giuseppe, sì, no? Dice, no? Ah. E ce lo confermerà, di essere vittima di una macumba, no? Di una macumba. E da quel momento si è sentito più che fuori posto, fuori dal mondo. È vero, Giuseppe? Sì, sì, è proprio così. Ciao, troppo... Giuseppe. Ma scusa una cosa, Filippo. Sono molto teso perché sento il termine macumba che già mi spaventa, no? Chi ti ha fatto la macumba? È una mia ex che ho conosciuto così casualmente, insomma, e da lì poi a distanza di anni mi sono ritrovato questa, dopo averla lasciata mi sono ritrovato questa ragazza che mi perseguitava avendomi fatto questa macumba. Cioè come ti perseguitava? Cioè in che senso? Ma sei, cioè, è vero? Se esisti in carne e ossa tu, sì, è vero? Sì, come no? Voglio essere adesso qui a Napoli, in provincia di Napoli, certo che ci sto. Però facci capire, Giuseppe, partiamo dall'inizio. Come nasce questa storia d'amore? Dove vi incontrate? È stata una casualità che mentre io rientravo a casa sul lungomare di Napoli, lei rientrava dalla vacanza, da un come dire, scenario perfetto, no? Lungomare, ottimo, il sole, Napoli. Stava rientrando, sì, da una giornata di mare, non ricordo se a Capri, Ischia, dove era stata, e io insomma, vedendo lei che chiedeva un passaggio, giustamente, insomma, i miei 23-24 anni, insomma, lì avevo voglia, insomma, di conoscere, di fare, se non che... Com'era questa ragazza? Com'era? Era buona? Insomma, buona no, però insomma ci stava di fatto che era una ragazza... Cioè, hai rimorchiato una che non ti piaceva, ti sei fidanzato, cioè, con una che non ti piaceva? Ma che cazzo? No. Cioè, ogni buco va bene, come si dice a Napoli, cioè... sì. Ogni buco no. È pertuso. Bravissimo, bravissimo. Diceva Platone, no? Io quando non so che dire, dico, diceva Platone che... A quell'età, scusami se ti interrompo, ma c'hai gli ormoni a mille. No, te capisco. Quindi, insomma, sarà con te. Io queste cose le eviterei, perché questa sì, è già da fatta a macumba. Tu mi dici a quell'età qualsiasi cosa va bene. Vabbè, quello è successo dopo, purtroppo, perché dopo che è stata la storia, insomma... Vabbè, nasce questa storia, tu dai il passaggio che fate? abbracciate, vi baciate, nasce un rapporto. Da lì non è uscita solamente lei, ma bensì con altre amiche sue, altre tre ragazze che erano nascoste e volevano un passaggio alla stazione. Nascoste dove, scusa? Dietro un cespuglio, come nei film. Dietro qualche macchina così che c'era lì sul lungomare. Te l'ho fatto agguato, che? Ma Giuseppe, dimmi la verità, sei vero tu oppure è una storia vera? Tratto da una storia vera o no? Certo, sì, è vero, verissimo. Comunque tu inizi a fare l'amore con questa ragazza, no? Nasce un rapporto, una storia e... Come vanno le cose all'inizio? Tipo, quante volte al giorno faceva dell'amore? Gli piaceva molto cantare, come si suol dire. Hai reso l'idea. Cantare, ok, le canzoni, ok, perfetto. Tra la parentesi, tu sei uno all'altezza, sei potente sessualmente? Insomma, in quel periodo era abbastanza tonico, insomma. Ma sei un reitto della società. Sì, grazie pure a Stamacumba, sono un po'... Allora bisogna capire bene Stamacumba. Nemmeno quella forza la mattina di alzarmi, diciamo, fra virgolette. Non c'è più nulla da dire. Certo, attualmente ancora in essere. Ma scusa, ma faccio una domanda anche ai radioascoltatori: ma il Viagra funziona contro la macumba o no? Chissà. Non lo so perché non l'ho provato. Ma scriveteci magari se il Viagra funziona contro la macumba. Tu provaci, ma cos'è che fa scattare la macumba? Cioè, perché questa a un certo punto decide di fare la macumba? Già i rapporti non erano granché quando si stava insieme, visto una volta, visto due, che succedevano delle cose che a me non piacevano, anche ci siamo lasciati. Quindi avete detto basta, tu gli hai detto basta, è finita, sì, giusto? Sono andato e non sono ritornato più. Se non che poi a distanza di anni mi sono ritrovato, mentre lavoravo a Calenzano, in una società a Calenzano, mi sono trovato il fratello che mi è venuto a bussare nell'ufficio dove io lavoravo a Calenzano. Nonostante che il fratello facesse l'autista di autobus, cioè insomma portava turisti da nord a sud, insomma addirittura a bussarmi in ufficio dove io stavo era la cosa. Vabbè, ma che c'entra con la macumba sta cosa? Il fratello arriviamo alla macumba, la tua ex, no? Facciamo un piccolo riassunto per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Allora, Giuseppe in provincia di Napoli sostiene che da quando si è lasciato con l'ex per vendicarsi gli ha fatto una macumba, no? E quindi le sue scarsissime prestazioni sessuali di adesso dipendono dalla macumba. Sì, purtroppo. Ma sta macumba come si sostanzia? Cioè, che te fa? Sono successe varie cose, insomma, che alla fine col senno di poi uno ragionandoci era la macumba. Andato dal mio barbiere, insomma, a recuperare una ciocca di capelli. Io non ci credo. No, ma veramente. Litigato. Cioè, la tua ex per farti la macumba è andata dal tuo barbiere? Sì, mi ha seguito, mi seguiva, insomma, sapeva dove andavo dal barbiere. Ma come ha fatto a prendere i capelli dal tuo barbiere, scusa? Questo non lo so, perché non gliel'ho chiesto al barbiere, perché abbiamo litigato. Quindi non... Ti sei incazzato col barbiere che dà i capelli? No, se lo sapevo che gli dava i capelli, glielo dicevo io, ti do qualcosa in più di quello che ti dà lei, ma non gli dare niente a nessuno, no? Certo, perché... Sapendo a quello che andavo incontro, perché insomma una cosa che dura più o meno 10 anni. Aspetta, no, cogliamo la palla al balzo perché insomma è una cosa importante. Allora, facciamo un appello qui dai microfoni di Radio 24 a tutti i barbieri d'Italia, no? Sì. Se arrivano le ex a chiedere ciocchi di capelli dei maschi, non glieli date, cioè... No, assolutamente no. Oppure usatele come arma di ricatto con i vostri clienti per avere più soldi, però non glieli date, giusto? Però Giuseppe, che ci ha fatto con sti capelli poi? Che ti è successo? Praticamente ha fatto un legamento d'amore con una bambolina. Un legamento d'amore? Che roba è? Sì, insomma tipo in italiano si dice d'agita d'amore. Come si dice? D'agita. Cioè, in italiano? Da leggere su internet si dice d'agita. Cioè, ma con una bambolina? Sì, con una bambolina. Cioè, fammi capire, questa c'ha tra le sue mani, a questo punto posso dire, sta stronza, c'ha tra le sue mani... Tranquillamente. Tranquillamente, sì, sarà contento. Per me è pure di più, cioè una persona che è un essere che fa una cosa del genere, alle spalle all'insaputa di una persona... Non esagerare, che quella ti sta a sentire poter te raddoppia macumba, sta attento. Ma figurati, già sto soffrendo, soffrendo relativamente, nel senso che i fastidi me li dava continuamente. Ma cosa stifi? Io però non capisco un besti fastidi. Allora, scusa, prima di arrivare ai fastidi, cioè la tua ex in questo momento per vendicarsi ha tra le mani... una bambolina con i tuoi capelli, e quindi tipo una specie di voodoo, giusto? Sì. Quindi esatto. lei tipo ti tira la gamba della bambolina e tu senti un dolore alla gamba, giusto? È una tipo, non tira, cioè c'è come una puntura di spillo, sento proprio sulle, cioè, facciamo sulle un esempio, tu, cioè, peraltro, tu durante il giorno che fai? Fammi capire, che lavoro fai tu? Sono autista di una signora, insomma... Okay, fai l'autista, che succede? Tu, sì. Mentre guidi, cosa ti succede, cosa senti? Preciso non sento niente, insomma il problema è che lei fa di tutto per fare le cose a mia insaputa, insomma che io non mi renda conto di queste cose. Infatti è capitato che io mentre stavo facendo un percorso sapevo dove dovevo andare, all'improvviso sì. Mi sono trovato per un'altra strada. Incredibile, insomma, mamma mia. Cioè hai perso la cognizione, l'orientamento addirittura, sì, ma è pericolosissima sta cosa. Cioè tipo se lei decide di darti una botta al braccio, tu senti male al braccio, giusto? Sì, benissimo. Io, ma il problema sai qual è, Giuseppe? Speriamo che questa non cerca di darti una botta, insomma, nei punti critici, perché poi lì, no? Infatti, ma, molto oggi ti è successo qualcosa? Anche oggi hai subito la macumba, ad esempio. Quando è l'ultima volta che hai subito sta cacchio di macumba? Stamattina mi sono svegliato con un dolore, come un'infiammazione alle gengive dell'arcata superiore. E tu sei certo che sia la macumba? Senza... Sì, ma è capitato con tante altre cose. Ma sicuro? Non è che tipo ieri hai mangiato pesante e mo c'è questa infiammazione delle gengive? Secondo me saranno stati peperoni. Senti, cioè... Adesso sei nuovamente fidanzato? È una nuova donna oppure sei single? No, è come no, è voglia. Sono circa 10 anni che sono sposato con una bambina, ringraziando Dio. Quindi cioè, è quello che non ho capito è che si è presentata dopo 5 anni circa che ero sposato, anche se già precedentemente avevo delle avvisaglie, però non ho mai aperto una cosa del genere. Senti, ma tua moglie è tutto sì. A posto? Sì, nel senso sì, che... Sì, ringraziando Dio. Meno male, meno quello. Quello sì, è tranquillo. Certo, non la puoi mai lasciare, certo, perché punto. Se pure lei si mette in testa di farti la macumba... Cioè, sono cazzo. Senti, no, ma è diametralmente opposto a quest'essere ignobile che mi ha fatto. È un essere ignobile. Che schifo. Giuseppe, facciamo una cosa. Mettiamo che adesso ti sta ascoltando. È giunto l'ora che tu ti liberi da questa macumba. Falle un appello. Pregale di scioglierti, liberarti da questo incubo. Ma io sono andato anche per via legale. Figurati che alla fine mi ha chiesto pure scusa. E ti posso pure leggere la lettera di quello che lei mi ha detto in queste scuse. Ce l'hai lì con te la lettera? Ce l'hai lì? Ce l'ho qui davanti. Se volete. Leggi, sentiamo. Leggi. Sì. Allora, in relazione agli spiacevoli episodi accaduti tra maggio 2012 e agosto 2013, oggetto delle querele della Esport nei miei confronti, rivolgo sentite scuse impegnandomi e promettendo che tali episodi non si verificheranno mai più. Giuseppe, questo è un momento molto importante. Giuseppe? Sì? Ecco. Allora, qui dai microfoni di Radio 24 noi proveremo ad andare oltre, no? I fuori posto, Filippo, proveranno a rompere l'incantesimo della macumba. È un momento importantissimo, un momento altissimo di radio, perché adesso stiamo provando a chiamare colei che tanti anni fa ti ha fatto la macumba. Allora, tu stai zitto, non dire niente, ci pensiamo io e Filippo, va bene? Pure ai radioascoltatori, non ci scrivete in questo momento. No, sospendete tutto. Sospendete tutto, concentratevi da sotto agli ombrelloni. Poi, non appena lei risponde, ci potete mandare messaggi, mail, tutto quello che è, ma cioè, chiediamo la concentrazione di tutto per rompere la macumba. Liberiamo Giuseppe dalla macumba. Vai. Aspetta, forse risponde. Pronto? Ah, pronto? Pronto, sì? Buongiorno, noi siamo due emissari in difesa di Giuseppe. Noi siamo qui per liberarlo dalla macumba che lei le ha fatto tanti anni fa. Siamo Umberto e Filippo da Radio 24, cioè perché non interrompi l'incantesimo e lo fai ritornare un uomo virile come quello di una volta? Ma andatevene a fanculo. Ah, ecco, mi sembra ben disposta. Giuseppe, niente. Ma vedo male. Mi sa che questa la macumba continua e mi sa che i problemi. Butta sul Viagra, c'è niente da fare. Allora io ti consiglio Viagra, Cialis. Beh, c'è Levitra. Hai visto come sono esperto? Sono super informato. Ti tocca quello ormai, perché mi sa che questa macumba andrà a sciogliere. Giuseppe, magari ci risentiamo in uno dei prossimi giorni per vedere com'è il tuo stato psicofisico. Cioè, avvertici, chiamaci se hai problemi, se questa macumba continua. Certo. L'occulto grazie Giuseppe, l'occulto Filippo riscuote sempre un grande successo, no? Cioè, ci sono un sacco di WhatsApp. C'è Francesco che dice: sono solidale con Giuseppe, purtroppo tutto quello che è magia o magia nera esiste, vedi, alla fine molti ci credono. Esiste. Noi... E poi visto, uno va dal barbiere sereno, non sa che in quel momento mentre tagliano i capelli sta nascendo la tua macumba. Questa cosa è inquietante. Ecco, tutto quello che vi abbiamo raccontato è sempre su Radio 24, è fuori posto. E noi intanto vi ringraziamo perché ci avete sopportato per più di un'ora, cioè insomma due deficienti come noi. Bell'incubo, bell'incubo. Quindi vi ringraziamo. Vi ricordiamo i fuoriposto @radio24.it oppure SMS o WhatsApp per i più giovani 349 23 86 666. Noi ci ritroviamo sempre qui ai fuoriposto domani mattina alle 10 in punto. Mi raccomando, sintonizzate, segnatevelo, anche perché insomma abbiamo bisogno di voi per pagare il mutuo, per pagare la casa, per pagare. Aspettateci con le nostre storie, vi aspettiamo con le vostre storie e a domani. Ciao.